Va bene. Cosa? Sì, Albanberg. Oggi che giorno è? Giovedì. Un ottimo modo per cominciare il giovedì. Anche per finirlo, visto che sono un ore. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Drago. Scherziamo, giochiamo, no, facciamo. C'è poco da scherzare in questi giorni sui bambini qui all'asilo, perché tra il massacro di Homs in Siria, l'incidente del pullman in Svizzera, la sparatoria alla scuola ebraica di Tolosa, la maestra di 54 anni che schiaffeggia i bambini all'asilo di Milano, i bambini non se la stanno passando mica troppo bene. Qui all'asilo Stoppani, per fortuna, Drago, finora non c'è niente di drammatico. No. Possiamo stare allegri, sorridere. Qui al massimo possono iniziare delle rivolte contro i finocchi cotti in mensa, ma sono cose presto risolte. Presto. Chi non mangia i finocchi cotti salta il pasto e tanti saluti. No? I bambini adulti della politica italiana, invece, stanno tornando alla ribalta dopo un inverno sottotono. Le vicende di Lusi, di Boni e Emiliano sono su tutti i giornali e i litigi televisivi stanno piano piano riconquistando il loro giusto spazio. Meno male. Sentiamo il bel Francesco Rutelli a confronto con la bella Lucia Annunziata. La bella. Bella, insomma. Che cosa c'è di male nel fatto che lei riceve questi soldi? Riceve il fatto che CFS non li riceve, ma continua soldi. A dirlo. Non lei riceve un centesimo, li do. Ma li do, nega, ma ancora. Mi scusi, ma lei ancora insiste. Ma sì, alla terza volta insiste. E io insisto. Non li ricevo, li do. Quindi lei ma l'ho querelato, può farsi querelare anche lei? Eh sì, dai. No, forza. Mi scusi, ma glielo detto. Ma lei mi ascolta? No, ma io o seguo la sua scaletta e ripete le domande che aveva programmato. Ma che bello, i Fight Club politici finalmente tornano in televisione. Eh sì, poi la domenica anche questo. Che non c'era niente da vedere. Infatti, comunque, ultimamente era deprimente guardare Ballarò, Piazza Pulita, L'Infedele, perché si vedeva che mancava il nucleo fondante di quei programmi, e cioè la polemica, il litigio. Sì, e poi nel caso di Rutelli e dei soldi di Lusi, il litigio è appena cominciato. Sì, sì, sì. Vedrai che fra un po' invitano nello stesso studio Rutelli e Lusi. E non so, gli mettono i guantoni e lasciano fare. Certo, secondo me è Vespa. Questa scaletta. Vespa potrebbe fare il plastico della margherita, no? Ma come della margherita? Mette una margherita di plastica e. La pizza. Lo scorporo, scilipoti. Tra il video di Marco Borsetti che ha seguito alla lettera le nostre indicazioni. La lettera, cioè, mica tanto. Beh, la lettera, nel senso, fate un video brutto. E lui l'ha fatto, sì. Beh, forse questo potrebbe. Cioè, nel senso che l'associazione delle immagini con il testo deve essere didascalica, non immaginifica. Ma che qui nemmeno immaginifica, qui aveva una serie di immagini, guarda, Occhetto. Cosa non c'entra Occhetto? Sì, noi, Cappedrago, Marchione. Marchione è proprio perché, sai, vedi, Fiom, CGL, cosa c'entra? Lo spread si vede le bandiere rosse. Tutti in red. Pezzo in però, red. Pezzo bellissimo. Bondi. Ma ti sembra? Sgarbi. Vabbè, se volete anche voi ammirare l'opera artistica di Marco Borsetti, andate sul nostro Facebook. Facebook di Chiedo Asilo. E quindi Borsetti arriva dopo Marco Landolina. Sì. Che tu chiami sempre Landolfini. Landolfini. Ma non è Landolfini, lui non sarà contento che lo chiami Landolfini. Secondo me lui è più contento. Cioè, se lui improvvisamente una mattina si sveglia, guarda la carta d'identità e dice: ma come? Ieri era la Landolina e oggi è Landolfini. E lui è contento con tutto. Sì, vabbè. Vabbè, apprezziamo allora il lavoro, la passione di Marco Borsetti. Sì, solo bravo, che cercate bravo, di bravo. Essere il più didascalici possibile. Aspettiamo i vostri video. Il regista del peggior video didascalico, perché sennò questo è il peggior vincerà. Video vincerà un weekend intero col bambino Alberto. Nel senso che dovrà occuparsene come se fosse un o una babysitter. Vabbè, allora è per quello che Borsetti ha fatto sto video. Non vuol vincere. Certo. Wunderwaffel. Ah, ein Stadtmensch. Sì, clown, volante, sviri, robe, pasalto di sì. Wunderbar. Aber das stimmt nicht. Wir haben das Fresh erfunden. Da ist Minze drin, in einer knackigen Füllung. Ein zarter Schoki von Wunderwaffer, Wunderwaffer. Aber Vorsicht, Wunderwaffer. Ist cool, man. Aber Vorsicht, ist cool, man. Wunderwaffer, Wunderwaffer. Wunderwaffer, Wunderwaffer. Ist cool, man. Wunderwaffer, Wunderwaffer. Wunderwaffer, Wunderwaffer. Per il piacere dei grandi e dei piccini sta arrivando il nuovo Wunderwaffer. Nuovo nel senso che adesso è commestibile. Ma no, ma che cosa dici? Dai? Ma magari hanno tolto qualche ingrediente tossico alla ricetta. Ma no, è lì il bello, no? È una sorta di mitridatismo. Ma Tito, non dire queste ma sta bravo. Ma è che poi ci danno degli snob, eh? Ma un po' lo siamo. Ma non è vero, gli snob non mangiano Wunderwaffer. Ma noi siamo costretti a mangiare. Comunque dai, c'è il nuovo Wunderwaffer. E che cosa c'è di nuovo nel nuovo Wunderwaffer? C'è la parola nuovo sulla confezione. Davanti a Wunderwaffer ha messo nuovo. E con una presentazione così gli ascoltatori non vedranno l'ora di assaggiarlo. Ma cosa? Il nuovo Wunderwaffer, no? Ma vabbè, ma tanto non è nuovo, quindi è tutto come prima. Prima non lo volevano assaggiare, quindi non cambia niente. Ma questa no? conversazione ha un che di assurdo. No, è un po' noiosa soprattutto. Perché gli snob sono noiosi. Eh sì, dai, allora hai ragione, noi siamo snob. Scusa, ma il mitridatismo? Cerca sul dizionario, su Google. Google. Come si dice? Google. Google allora. Google. Mitridatismo, assuefazione ai veleni. Vedi quante cose si imparano all'asilo. Bravo, e su Google. Bravo. Tantissime cose. Tantissime. Adesso però ho letto che ci sono cose che non vanno nel sistema educativo italiano. Sembra che d'ora in poi le maestre dovranno scoraggiare le amicizie esclusive tra i bambini. Cioè? Basta amico o amica del cuore. Bisogna sempre stare tutti insieme e andare d'accordo con tutta la classe. Ma cosa vuol dire? Ma come cosa basta? Vuol dire? Vuol dire è che il mio migliore amico. No, i bambini crescono meglio se non hanno il miglior amico, l'amico del cuore. Tutto lì. Quindi basta coi banchi a due, basta parlarsi all'orecchio pissi pissi pissi, basta con le bambine che vanno al gabinetto due alla volta, basta, basta. Cosa fai? Basta. Gabinetto tutti insieme, almeno quello rimarrà uguale a prima, no? Sì, ma uno alla volta, non esistono più i migliori amici, le migliori amiche. Ma chi l'ha deciso, scusa? Gli inglesi. Ma cosa c'entra gli inglesi? Cosa vogliono? Per ora con noi non c'entrano niente, non vogliono niente. Però sai com'è? Qui le teorie arrivano dall'estero e poi godono di una fama così. Dopo cinque anni alla fine copiamo sempre quello che fanno gli altri, quindi... Vabbè, ma come si fa? Scusa, il primo amore, i primi batticuori, tutta primo batticuore... Battecuoro, tutta spazzatura del passato, caro capo. Il futuro sta nel collettivo, non nei rapporti esclusivi. Disse il presidente Mao prima di mandare tutti in campagna a zappare la terra. È di Mao. Questo è il vero Mao. È perché Mao. Mao cosa? Mao uno Mao. Pensa che, sì, che fosse uno cattivo. Che non sono i Mau Mau. No. Che anche loro sono di Tareno. Tutti di Tareno, La scena è di Tareno. Vabbè, anche gli ascoltatori che vivono vicino a Tareno possono scrivere a chiedoasilo@radio24.it. O su Facebook, Bacheca. Bacheca. Senti qua come siamo moderni. Ci vediamo domani. Cioè ci sentiamo, ci vediamo chi? Niente.